24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci alle 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 e il tema del nostro sondaggio che subito vi lancio è questo, è il giorno della manovra. E allora vi chiediamo, vi piace questo clima di coesione nazionale al quale ha fatto riferimento Napolitano, quello tra maggioranza e opposizione? È il tema del nostro sondaggio, votate su radio24.it, bianco o nero, ci trovate nella home page un po' in basso a destra ed ora andiamo a scoprire cosa ci offrono i giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 15 luglio la manovra per l'appunto nei titoli di prima pagina dei giornali, per il Sole 24 Ore, tagliati i fondi dei ministeri, questo è il titolo di apertura. Il Corriere, costo di 1000 euro a famiglia, decreto sì del Senato, Napolitano sui tempi, un miracolo. La Repubblica, Tremonti, siamo sul Titanic. La Stampa, manovra, colpite le famiglie. Per il Giornale, la casta si aumenta la paga, senza vergogna. Per Libero, nella notte la casta salva i suoi privilegi. Dunque, giornale Libero su questo tema. E poi il Fatto Quotidiano. La casta mangia, l'Italia affonda. Il Messaggero, la manovra pronta è un miracolo, la frase di Napolitano. Per Avvenire, una manovra a mozzafiato. L'Unità, colpite le famiglie. Il Manifesto, invece, per dire appunto Italia le famiglie, mette la foto del governo, Family Day. Via le agevolazioni fiscali su figli, asili, istruzione. Eccoci qua. E allora, questi sono alcuni titoli di apertura. Intanto le segnalazioni, una riguarda proprio i figli. Vi ricordate la vicenda del bonus bebè? È una vicenda che tira fuori La Stampa, pagina 25, con Federico Genta. Tutto iniziò con la lettera di felicitazioni, no? Lo sai che la nuova legge finanziaria ti assegna 1000 euro? Un grosso bacio. Questa era la firma. Silvio Berlusconi, tra il 2005 e il 2006, 600.000 famiglie ottennero questo bonus bebè, 1000 euro per un nuovo arrivato in famiglia. Ebbene, ora il governo chiede indietro soldi e interessi per migliaia di famiglie. È un pasticcio tipico all'italiana, perché esaminando le domande che venivano presentate con autocertificazione, e si è scoperto da parte delle istituzioni che non tutti i bambini avevano diritto a ricevere quel denaro. Infatti la soglia per ottenere quel bonus era di non dover superare i 50.000 euro di reddito complessivo in famiglia. Già, ma 50.000 euro lordi o 50.000 euro netti? Beh, quel modulo, quella lettera non lo specificava bene. E allora molti hanno detto, bah, io interpreto 50.000 euro netti. Eh no. Cari italiani, avete sbagliato, erano 50.000 euro lordi e dunque molti che magari erano, che ne so, 45.000 euro netti e hanno chiesto e hanno ottenuto il bonus bebè, ora si vedono una bella lettera a richiedere: siete stati dei ladri di bonus, ora ce lo dovete restituire questo 1000 euro e se avete anche truffato magari in maniera truffaldina ci dovete dare anche gli interessi e rischiate anche delle sanzioni oltre al danno, la beffa, cornuti e mazziati, insomma come direbbero a Napoli. Sta di fatto, bonus bebè, ora il governo chiede indietro soldi e interessi, migliaia di famiglie rischiano di vedersi recapitare questa lettera. E la seconda segnalazione che voglio dare un po' da tutti i giornali, vabbè, il Corriere la mette, io ne avevo parlato, vi ricordate quel finto prete che aveva rapinato una gioielleria Eleuteri in via Condotti a Roma? Beh, è stato preso il falso rapinatore, i carabinieri di Roma l'hanno seguito con le telecamere, ci sono anche le foto, l'uomo travestito da prete lo trovate da una telecamera in via Condotti che esce con delle buste molto molto piene, evidentemente frutto della rapina. È stato preso perché il bandito Monsignore, a un certo punto seguito dalle telecamere del centro di Roma, si è tolto il cappello che usava per coprirsi il volto e evidentemente è stato identificato. Sapete che ha detto? Vabbè, giusto perché si può anche sorridere, anche se è un'azione criminale, eccetera. Quando è stato preso dai carabinieri, sono pur sempre l'unico ad aver rapinato un negozio in via Condotti. Lo scriverò sul mio biglietto da visita. questo il ladro, il rapinatore della gioielleria che è stato fermato dai carabinieri. Simone Di Martino, 38 anni, travestitosi da prete per svaligiare questa gioielleria, la gioielleria Eleuteri, è stato beccato. 24 mattino. L'intervista. Sono le 8 e 21 minuti, eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori di Alessandro Milan, eccoci ancora in diretta. Voglio salutare l'onorevole Francesco Laratta del Partito Democratico, buongiorno. No, buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, lei l'ha combinata un po' grossa, così almeno dicono. Cosa ho fatto di male? Lei ha messo sul suo profilo Facebook una foto, un fotomontaggio di Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, sott'acqua con delle bolle, le ultime bolle, insomma, e con i pesciolini vicini. E con i pesciolini, sì. E c'è poi era un acquario, quindi non era... C'è qualche squalo. Però no. C'è anche qualche squalo. No, ma il concetto è che il giornale anche oggi titola "La sinistra sogna di annegare Berlusconi, di volerlo vedere morto". Ecco. In sostanza abbiamo anticipato quello che ha detto ieri Tremonti, no? Che non vuole, credo, vedere morto Berlusconi come nessuno di noi, ma è l'immagine di un paese che affonda. Lui ha usato il Titanic o Titanic, e qui dice: guardate che qui non si salva nessuno, dalla prima alla terza classe, cioè da Berlusconi al povero operaio, il paese affonda. L'idea che poi quello che a me ha colpito... Però lei non ha messo un operaio, ha messo Berlusconi, insomma, capisce? Sì, è un po' il simbolo del paese che affonda, anche l'artefice e l'autore anche di questo affondamento insieme a Tremonti. Ma quello che a me colpisce è la violenza della reazione che, utilizzando ovviamente attraverso i giornali, Facebook, centinaia di messaggi, del fanatismo berlusconiano che c'è in Italia. Però lei dice violenza, insomma, mettere la foto comunque premier che sta morendo, questo è il dato di fatto, e anche questa è un'immagine forte. Sì, è un'immagine forte, ripeto, che io l'avevo scritto nei commenti, che poi ovviamente non sono andato a leggere, la foto che non è mia, fra l'altro, ma circola su Facebook da giorni, da decine di giorni. Nei commenti si diceva: attenzione, nessuno vuole morto Berlusconi, il problema è che il paese affonda. Ecco l'immagine proprio che usa il ministro dell'economia ieri in Parlamento, al Senato, in cui Berlusconi non si fa vedere, si nasconde in questo momento. Vabbè, quindi lei dice non c'era nessuna immagine che voglia identificare. E perché queste, però ci sono state molte reazioni a dire vogliono un po' l'odio nei confronti di Berlusconi, la solita sinistra che vuole spargere questo. Solo questo. Cioè è che dire, insomma, è lei che deve morire, siete voi comunisti che dovete morire, lei si dovrebbe, si sputi, si guardi allo specchio. Ma questi sono i commenti che ha ricevuto? Sì, ma sono a centinaia, e quello che proprio colpisce è la violenza e la volgarità. Ora voglio dire, noi giochiamo anche spesso, anche Facebook è un luogo dove, la rete è un luogo dove si gioca, si ironizza, si fanno questi scherzi, sono molto spesso scherzi, si gioca su questo, ma è un po' anche, molte solo metafore, molte raccontano quello che accade in questo paese utilizzando immagini brevi, rapidi, segni di un luogo dove si ragiona spesso anche, come dire, forzando. Però quando vedi le reazioni capisci che nel paese c'è ancora, come dire, una forma di fondamentalismo che rifiuta di vedere anche la realtà dal nostro punto di vista. Beh, però dice fondamentalismo è solo dall'altra parte, insomma, mettere la foto del presidente del consiglio che affonda così, che no, quindi con la didascalia e col commento in cui si dicono che in realtà si vuole immaginare il paese, non è un augurio. Nessuno di noi può pensare neanche del peggior nemico che lo si vuole vedere ucciso, affogato. Senta, no, il nemico si combatte. Oggi c'è la manovra allora alla Camera, l'approvazione definitiva. Pomeriggio votiamo questa manovra, già sappiamo che non basterà neanche questa, ci è stato detto che, io ricordo 6 mesi fa che alla Camera Tremonti disse i conti sono in sicurezza, non c'è bisogno di manovra, poi la manovra era di 3 miliardi a maggio, di 6 a giugno, di 70 stasera, ci voglio dire, la situazione è davvero grave, c'è un senso di responsabilità di tutte le istituzioni, delle opposizioni, dei partiti, votiamo, noi non la votiamo, consentiamo che si faccia una manovra in 12 ore. Quindi voglio dire, almeno questo segnale che possa essere utile, possa... di coesione nazionale. Senta, il giornale oggi che la mette appunto tra i vari commenti a dire una sinistra senza rotta che sogna di annegare il cavaliere, questo è il titolo, ricorda anche tra le iniziative dell'onorevole Franco Laratta la proposta del premio Nobel per la pace a Vittorio Arrigoni, vale a dire quel ragazzo che fu ucciso, il che fu ucciso a Gaza. Sai che già la definizione pacifista per molti è contestata. Comunque, insomma, premio Nobel per la pace, perché? Beh, ci fu, diciamo, in quei momenti non ero tra quelli che sottoscrissero questa proposta, ce n'erano tanti, viaggiava in rete, anche questa cosa. Lì ti ricordi che fu un episodio brutto, molto brutto, che colpì l'opinione pubblica mondiale, quella nazionale, il mondo pacifista, il mondo che non vorrebbe vedere queste cose atroci, no, fu una cosa atroce, era anche lì segno e simbolo di voler riconoscere che la pace è fondamentale, che queste cose non debbano mai accadere, lì, ecco, quella è vittima dell'odio, quel ragazzo ucciso così, vittima dell'odio, quindi è anche un segno. Voglio dire, poi anche queste cose si strumentalizzano, si dà una carica. Sì. Comunque, insomma, consiglio finale: cambi, visto che c'è anche lo spunto di Tremonti, cambi la foto su Facebook, metta il Titanic che affonda, così ci siamo tutti. Ci siamo, ci siamo tutti. Ma allora mettiamoci anche i numero 1 e 2, insomma, cominciamo da loro. Ah, vabbè, insomma, si mette anche lei allora, visto che nel Titanic affondiamo tutti. Io, anche me. Va bene. Intanto la ringrazio, buona giornata, grazie. L'onorevole Franco Laratta del Partito Democratico, che ha messo questa foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ha fatto suscitare molte reazioni, insomma, di un Berlusconi, un fotomontaggio di Berlusconi che sott'acqua di fatto annega attorno a lui qualche pesce, delfini, ma anche squali. Allora ci fermiamo, parliamo appunto di manovra nel nostro sondaggio tra poco, dopo pubblicità e meteo, parliamo della manovra e in particolare di questo spirito di coesione nazionale che c'è, e vale a dire in nome della sicurezza, della stabilità, del segnale da dare ai mercati, dell'evitare quel Titanic evocato dal ministro dell'economia Tremonti, per il quale se affonda affondiamo tutti dalla prima alla terza classe. In nome di questo si approva oggi la manovra finanziaria a tempi record, come ha sottolineato il capo dello Stato Napolitano. La domanda che vi chiediamo è proprio questa, domanda politica: vi piace questo clima di coesione nazionale? Siete d'accordo a questo senso di responsabilità tra le forze politiche che, io lo dico subito, titoli alcuni oggi dei giornali, di Libero, del Giornale, del Fatto Quotidiano, tutti i titoli a dire tagliano tutti, ma la casta invece non si taglia nulla. Il lamento dei senatori: non toccateci lo stipendio, questo per Libero. La casta si salva nella notte, sempre per Libero. Tagli da manicure alla casta, per La Stampa. Questo clima di coesione nazionale, insomma, vi piace questo clima di coesione nazionale tra maggioranza e opposizione? Vi piace oppure no? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Siamo come sul Titanic, l'espressione usata dal ministro dell'economia Tremonti, cari italiani. E quindi in nome di questo bisogna dare un segnale, bisogna lanciare un segnale approvando la manovra. In nome di questo c'è questo clima di coesione nazionale tra maggioranza e opposizione, quindi oggi nel tardo pomeriggio ci sarà questo via libera definitiva in tempi record, come ha sottolineato il capo dello Stato. Oggi non ci saranno emendamenti praticamente lanciati, proposti dall'opposizione, e dunque la manovra sarà approvata. Parliamo di tutto questo, c'è da dire che i nostri ascoltatori non è che si dividono, però non è che piacciono. La regia prevalenza per il no, il 54% dice non ci piace questo clima di coesione nazionale tra maggioranza e opposizione. Intanto ne vogliamo parlare con l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Buongiorno e ben ritrovato, onorevole. Buongiorno allora agli ascoltatori. Eccoci qua, siamo in attesa di capire se il senatore Felice Belisario dell'Italia dei Valori ci risponde. È questo Stracquadagno, è il clima, anche questo, tensioni, qui non lo so, ci risponderà, non ci risponderà, chi lo sa? Io non sono in grado di dirlo. Guardi, siamo in due, non siamo in grado di dirlo, non sono in grado di dirlo neanche io. Allora, onorevole Stracquadagno, vogliamo subito entrare con i piedi nel piatto, come si suol dire? La questione è questa, le propongo tre bei titoli oggi dai giornali, bipartisan, Il Fatto Quotidiano, La Casta Mangia e L'Italia Affonda. Il giornale: la casta si aumenta la paga. È Libero: nella notte la casta salva i suoi privilegi. Allora, e come diceva ieri Libero, pagano vecchi e malati e la casta no? Guardi, intanto una precisazione: quando il ministro Tremonti ha paragonato il Titanic, non l'ha paragonato all'Italia, ma all'Europa, e il riferimento alla prima classe, che non si salva neanche quella, non è riferimento a qualcuno in Italia che sta meglio di qualcun altro, ma ai paesi più forti nel sistema europeo. E quello è il punto chiave, è la credibilità politica dell'euro, ha detto il ministro. Quindi la ragione di questa manovra, ma di tutte le manovre europee che hanno come obiettivo il pareggio di bilancio entro il 2014, è quello di mantenere in vita l'euro, che altrimenti rischia di essere spazzato via dalla debolezza dei bilanci pubblici dei paesi che ne fanno parte. Quindi vorrei collocare il tema nel tema in cui sta. Dopodiché la casta. Ieri Pane Bianco scriveva cose assolutamente ragionevoli, però io vorrei fare qualche numero, tanto per capirci. Il debito pubblico italiano ammonta a 1.900 miliardi di euro, siamo a cifre stratosferiche, no? Che si scrivono con 12 zeri. Il PIL italiano ammonta a circa 1.500 miliardi di euro. Il Parlamento italiano costa complessivamente 1 miliardo di euro, quindi siamo in dimensioni molto grandi, è molto diverse, no? Tra loro, e quindi tutto quello che è volto a ridurre le spese del nostro Parlamento è sacrosanto nel momento in cui sono sprechi, e ne indicherò uno subito, ma è inefficace se pensiamo che questo sia il panorama. Ho capito, però Straguadagno, così si difende sempre questa cosa. No, non difendo niente, vuole che dica subito. Ecco, cosa togliamo? Tanto non toglieremo nulla. Sa quanto costa al mese un ufficio di pochi metri quadri che viene dato? No, ci faccia arrabbiare un po'. No, ce lo 9.000 euro, l'avete detto voi un anno fa. 9.000 euro. Io e altri colleghi siamo per proporre che questa cifra venga totalmente abbattuta, perché è una cifra del tutto sproporzionata a qualunque livello. Sì, ma proporre, capisci? Oggi leggiamo su Libero che poi a seduta chiusa, lontano dalle telecamere, ma Libero pubblica i resoconti, no, dei senatori, poi dopo tutti a telecamere spente a dire non è vero, cioè dateci lo stipendio, basta questo attacco alla casta. Punto cruciale, sa qual è la vera casta? Sì. Quella di alcune centinaia di migliaia di persone che sono impiegate in tutte quelle funzioni che sono pubbliche e non dovrebbero essere pubbliche. Vogliamo fare un esempio più famoso di tutti? I servizi pubblici locali, quelli che una legge doveva rendere privati e doveva aprire al mercato e quindi riportare in concorrenza a livello di efficienza, e che invece un referendum ha detto che devono rimanere nelle mani dei politici. E purtroppo il referendum è stato quello di qualche mese fa, promosso proprio dal partito del senatore Bellisario, a cui volevo rivolgere proprio questa obiezione, perché la vera casta, quella ampia, allargata, quella che costa almeno 25 miliardi di euro, e cominciamo a ragionare su grandezze diverse, ma che soprattutto muove alcune centinaia di miliardi di euro tra forniture, servizio o altro, e non facendolo in regime di concorrenza e non amministrando i soldi loro, non lo fa con efficienza. Cioè, voglio dire, se io devo comprare per la mia azienda un prodotto che mi serve per lavorare, lo cercherò alla miglior qualità, al miglior prezzo, giusto? È normale. Se invece devo farlo per un'azienda pubblica, è probabile che lo compri da un amico e ci sia un costo di intermediazione in più, diciamo. Senta, così. Veniamo alla questione politica. Allora, questo clima di coesione nazionale sta bene? Perché guardi che dall'opposizione dicono anche oggi Bersani rilancia su Repubblica. Allora, noi la manovra non votiamo, no, va bene, ma non ci mettiamo di traverso. Votiamo questa manovra in tempi record, effettivamente, è clamoroso, cioè bene, insomma, in 24 ore, due passaggi. Però un giorno dopo, domani, Berlusconi se ne deve andare a casa, questo dice il Partito Democratico. Serima è l'opposizione. Non è chiaro il nesso. Non è chiaro il nesso? Beh, dicono è la causa. Non è chiaro come politicamente, nel senso. No, logicamente. Beh, non è che è da ieri che il Partito Democratico dice deve andare a casa, è da un anno, è da un po' che dicono Berlusconi. Non succede nulla, perché siccome sono minoranza in Parlamento e non hanno nessuna proposta tale da essere efficace per diventare maggioranza, io non so, mi sembra, come dire, abbaiare alla luna. Allora, il punto è il clima cosiddetto di coesione nazionale. A me sembra che noi possiamo, dovremmo vivere in un clima di normalità democratica, ossia che chi vince le elezioni ha 5 anni per realizzare il suo programma senza che debba essere costantemente aggredito o assaltato in un clima di rissa e di guerra ideologica permanente, che quello è quello che sta capitando negli ultimi tempi. E la differenza tra il comportamento del PD prima di questa decisione e dopo è semplicemente che hanno evitato l'ostruzionismo e hanno fatto bene. Se si evitasse sempre l'ostruzionismo e si praticasse una normale opposizione democratica, come noi abbiamo fatto per esempio negli anni dal 96 al 2001, abbiamo praticato una normale opposizione, siamo arrivati con un programma alternativo, abbiamo vinto le elezioni e abbiamo governato negli anni successivi. Cioè, quella è la normalità democratica. Fare un'opposizione democratica senza ostruzionismi, ma è quindi giusto e responsabile. Però non capisce questo onesto, per il Partito Democratico, per la sinistra, dice questo governo, questa è la posizione per cui... Guardi, il governo, la sinistra dice, mi scusi, no, però sì, la fine della legislatura. Però la sinistra, il Partito Democratico dicono questo governo è un po' la causa di queste fibrillazioni, nel senso la mancanza di stabilità, le inchieste, c'è un ministro adesso che rischia di essere imputato per un'associazione, un'accusa molto grave, per mafia, potrebbe essere il primo ministro accusato di mafia nella storia d'Italia. Insomma, è una situazione che i mercati poi vedono di forte instabilità. Sì, ma io potrei dire delle cose simili riguardante l'opposizione, con la differenza che non c'hanno ministri che hanno problemi perché non hanno ministri. Quindi adesso si discute del governo, della stabilità del governo, della credibilità del governo. Ho capito, ma questo argomentare per il quale la credibilità del governo è funzione delle convinzioni dell'opposizione è un argomentare che non funziona, perché la manovra che è stata approvata, verrà approvata oggi definitivamente, l'ha scritta il governo o l'ha scritta l'opposizione? Certo. Io guardi, non sono un grande sostenitore di questa manovra, penso che bisognasse fare di più sul piano delle riforme. Ma adesso parliamo di strutturale questo aspetto. Parliamo di però questa manovra. Purtroppo abbiamo molti vincoli. Parliamo di questa manovra. Uno di questi è stato il referendum. Tra poco parliamo di questa manovra, perché insomma c'è chi la definisce lacrime e sangue, c'è chi la definisce come la definirebbe ne fa la stangata. Insomma, i cittadini italiani sono un po' arrabbiati su questo. Vorrei sentire qualche ascoltatore prima di andare al traffico. Senatore Belisario dell'Italia dei Valori, niente, scomparso. Insomma, rimaniamo sempre in attesa. Tra poco finisce anche la trasmissione. Alessandro da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, e a tutti gli ascoltatori. E volevo intervenire in merito a questo clima di coesione. Ben venga, e speriamo che si possa ritrovare in altre occasioni. Per il bene del paese bisogna mettere da parte questi ostruzionismi e pensare realmente, concretamente, al bene di questo, se andiamo avanti con questi sistematici ostruzionismi, si vede dove va. Quindi va bene la coesione, ma lei è d'accordo l'idea di dire va bene, non votiamo contro la manovra, lasciamo passare, ma il governo se ne deve andare, questa è la posizione dell'opposizione? No, questa è una sparata che sicuramente deve fare l'opposizione, perché si deve anche giustificare con i propri elettori, non può figurare che sostiene il governo, perché purtroppo questa è la mentalità della politica italiana. Non si può far passare il messaggio che ci si trova d'accordo su qualcosa, quindi bisogna accordarsi e subito dopo però sparare di nuovo contro il governo. Questo sia da una parte che dall'altra, perché se ci sarà in un domani un governo di centro-sinistra, eventualmente il centro-destra farà la stessa cosa. Però è positivo. Insomma, a lei piace questo clima, insomma, questo clima di coesione in nome di un'unità nazionale, in nome del fatto che ci guardano un po' da tutto il mondo, ci guardano soprattutto i mercati da tutto il mondo, il rischio di speculazione, dunque le piace questo clima. La ringrazio, Alessandro. In attesa, intanto abbiamo notizie in più, onorevole, è spento il cellulare del senatore Belisario. Avrà avuto un inconveniente, certo, visto che ci aveva detto che avrebbe partecipato, come ha fatto altre volte. Mi auguro che sia un inconveniente di poco conto. Ma sì, certo che lo sarà. Anna da Roma, buongiorno. No, è caduta la linea, Anna da Roma? Non c'è, è caduta la linea. Oggi siamo fortunatissimi. Claudio da Milano. No, Claudio da Milano. Ecco Claudio. Sì, buongiorno. Ci dica qualcosa, buongiorno. Lei. No, volevo dire intanto che la coesione fra destra e sinistra c'è già, quando si è da decidere qualcosa per diminuire i loro stipendi e i loro privilegi sono sempre tutti molto coesi. Io dico, avrebbero potuto fare una piccola cosa, le spese che hanno intanto pagate per, a seconda di quello che spendono. Sentivo un paio d'anni fa un senatore canadese, un senatore che abita in Canada, prende 35.000 euro all'anno per voli aerei, che li faccia o non li faccia. Sì. Prendono un benefit per il telefonino, possono spendere canadese 100 euro. Cosa vuol dire? Cioè, eletto in Canada, un senatore italiano? Sì, un senatore italiano. Perché dice un senatore canadese, dicevo... all'estero. Ah, ecco, punto. Sentivo un giorno proprio Radio 24, sì, prende 35.000 euro all'anno, può fare un volo, due voli, tre voli o non venire mai, lui comunque si mette in tasca 35.000 euro. Allora, sono stufo io, sono stufo che vengano pagati i benefit a seconda di quello che spendano. Intanto si prepara a pagare il ticket, da lunedì, il ticket. Certo, io pagherò il ticket, pagherò adesso quando ci sarà a Milano l'Eco Pass, dovrò pagare perché io abito per entrare a Milano. Vabbè, quello non c'entra, quello non c'entra la manovra, però. Non c'entra niente. Però mettiamo comunque, dentro noi tutto. Noi dobbiamo pagare tutto. Loro hanno i soldi, poi possono spendere. Siamo stufi, non credo solo io. Allora, no, non credo solo lei. Onorevole Stracquadagno, adesso abbiamo recuperato Anna da Roma. Anna. Buongiorno. Eccoci, l'abbiamo recuperata, dica. Aspetta, io volevo dire all'onorevole Stracquadagno che non se ne può più, non so se è chiaro il concetto, non mi può venire a dire che la politica e la cassa costano 1 miliardo di euro l'anno, perché le 110 province anche perché italiane, il sole titolava 23 miliardi di euro l'anno, insomma, la politica, di chi vive di politica. Ancora poco, ancora voglio poco. Dire, la politica è tutto un insieme di cose, allora non mi si può venire a dire da persone che accumulano 3 o 4 stipendi, per esempio, quella è un'altra cosa allucinante, si può essere consiglieri regionali, sindaci. Beh, attenzione, però guarda, no, però si prende, in alcuni casi si prende solo uno stipendio, non, se no, questo per dovere di correttezza. Però voglio dire, la continuazione della cassa autoreferenziale, perché oramai il problema è tutto lì. Nessuno di noi cittadini elegge più nessuno. Quindi noi abbiamo dato tutto il nostro potere in mano a queste persone che si autosostengono. Insomma, la gente è stufa. Perché è quello che sta facendo l'onorevole Stracquadagno. La gente è stufa. Onorevole Stracquadagno, aspetti, però posso replicare? Sì, certo, però usciamo dalla questione solo casta. Io sono un po' stufo di questi cittadini che votano politici locali con le preferenze. Sì. E li eleggono loro, secondo una certa teoria. Che votano referendum che impediscano privatizzazioni. Perché quelli sull'acqua hanno impedito tutte le privatizzazioni dei servizi locali, lasciandole nelle mani dei partiti, che votano per il mantenimento di tutto il patrimonio immobiliare in mano pubblica, perché guai se il patrimonio immobiliare, che è una montagna, oggi c'è un bellissimo articolo sul Corriere che andrebbe letto e valorizzato, di tre, tra cui di una mia collega dell'opposizione, Linda Lanzillotta, che ha pienamente ragione, e di tutto questo, poi il problema qual è? Se eventualmente noi veniamo pagati, le spese vengono anticipate. Posso dire una cosa? Non è vero che vengono dati i soldi indipendentemente dalle spese. Le spese devono essere prima sostenute. Quel sistema lì era vigente in Gran Bretagna, quello delle spese senza limiti e dati sulla base solo delle ricevute, e ha portato a degli scandali enormi. Sì. Da noi le spese di viaggio possono essere ottenute soltanto passando attraverso le agenzie, chiedendo un viaggio e facendolo. Questa è la questione della non avere il denaro, mi spiego. Queste sì, va bene, sono le accuse, così, diciamo, alla cassa. Ma lei si difende giustamente. Perché vede, lei alimenta con questo una illusione. A me non me ne frega niente. Io probabilmente nel Ma che alimento? Ma che alimento? Ci siamo ridotti di 1.000 euro lo stipendio 9 mesi fa. Sì. 1.000 euro al mese e nessuno lo sa. Ma guardi, perché io non alimento nulla, però. Guardi, io lo dico subito. Ma legga tutti i giornali di oggi. Io nel prossimo Parlamento non ci sarò. Perché probabilmente non mi ricandido, perché sono stufo di far parte di un sistema che rende impossibile il cambiamento, perché ciascuno vuole mantenere il proprio privilegio fuori dal palazzo, non solo nel palazzo. Però scusi, Stracquadagno, allora, perché non aboliamo i finanziamenti ai giornali, oltre che quelli ai partiti? Lei me lo sa dire? Ma voglio dire, ma fatelo, ma c'è, non, che problema c'è? Il suo giornale, il suo editore hanno fatto l'ira di Dio contro lei sa bene. Lei sa benissimo che c'è una differenza tra i finanziamenti a pioggia e le detrazioni fiscali per chi magari... Distingo anche lei. No, che prima distingo? Distingo. Faccio, adesso distingue. No, distingo. Guardi, che intanto io non faccio il tutto il buon faccio. Io non alimento nulla. Scusi, straquadra, ma legga Libero, legga il giornale, legga il fatto. Ascolti, ascolti gli ascoltatori. Cioè, io do solo votato, la voce agli altri. Non è io che. Io ho votato contro questi referendum che hanno lasciato in mano dei partiti tutti i servizi locali. Da dove ricominciamo per togliere dalle mani dei partiti questa roba? Ha un'idea lei? Intanto mi dica questo. No, io non ho l'idea su questo. Però, i cittadini però, che hanno votato però, per mantenere perché abbiamo, nella abbiamo, mano della casta i no, servizi vabbè. Locali, il gas, la luce. Sì, onorevole Straquadagno, però abbiamo, ci siamo corretto. Dedicati tutto sulla casta. La questione però è anche diversa. Per esempio oggi Martino, Antonio Martino, liberale, dice una manovra da socialisti in un'intervista al Corriere, l'ennesima porcheria, colpisce la povera gente, il popolo delle partite IVA, il quale avevamo promesso di tagliare le tasse, invece muoiono come le mosche. Insomma, il concetto di questa manovra, che c'è anche lei ha detto non sono molto favorevole certo, a questa guardi, manovra. Cioè, è una manovra che c'è il ticket sanitario. Cioè, io pensavo che voi mi aveste chiamato non per fare una polemica d'occasione, ma, no, ma perché che magari avevate letto quello che avevo scritto proprio sulla manovra. Vi avevo detto che il centrodestra aveva copiato Padoa-Schioppa e Visco e quindi forse era su quello che io speravo di essere ascoltato. E su questo io sono assolutamente critico, però sono ancora più critico per chi chiede più copertura statale nei confronti di tutti e pensa che questo non costi. Qualunque cosa, le posso dire un episodio? Sì. L'altro giorno una persona che conosco mi ha raccontato di un suo conoscente, il quale, non so i nomi e non li farei comunque, la famiglia hanno due pensioni, 5 appartamenti in affitto regolarmente, quindi hanno un buon reddito, gli è stato tolto da questa manovra un benefit pubblico sì. che era destinato per una piccola invalidità ed era in funzione del reddito ed è diventato in funzione del reddito e non più a pioggia a tutti, e questo signore ha detto che non voterà mai più per il centrodestra perché gli ha tolto una cosa a cui lui aveva diritto. Se non la piantiamo di pensare che tutti hanno diritto a tutti e che occorre lavorare di più per produrre di più, succedono ste manovre. Non solo succedono queste manovre, il paese si impoverisce, si illude che togliendo dei soldi ai suoi rappresentanti politici risolve un problema e non lo risolve. Ahimè, perché finché estende il perimetro della politica a una serie di azioni che dovrebbero essere private, e su questo ci dobbiamo confrontare. Io su questo qual però è la il devo, perimetro della politica, la perché devo, quella è la casa. La devo fermare, io mi fermo. Se incontro, lei alla Camera, se va al Senato, ci saluti il senatore Belisario. Intanto se lo incrocio volentieri. Comunque gli faccio i migliori auguri già da qui. Ma non è successo nulla, non si sarà svegliato. Stavo scherzando. Una battuta, non mi permettevo di dire che non si è svegliato. Ma no, lo so, fattivo e operoso dal mattino presto. Grazie all'onorevole Straquadagno per essere stato con noi, con Alessandro Longoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia. L'appuntamento è rinnovato a lunedì alle 7:20. Ora linea va Oscar Giannino. A lunedì.